a dare la sveglia ai potenti del mondo, arrivando anche a bussare alle porte del Palazzo del Potere. Domani sono tantissime persone, soprattutto giovani in tutto il mondo, sono 80 i paesi e 900 le manifestazioni finora censite per il Global Strike for Future, lo sciopero globale per l'ambiente contro il cambiamento climatico, che è un'emanazione, anche se vogliamo, dei Friday for Future inaugurati dalla studentessa svedese Greta Thunberg. Per parlare delle iniziative che si svolgeranno nella nostra città, Bologna, siamo al telefono con Davide Ramelli, di Studenti per l'Ambiente, che innanzitutto saluto. Buon pomeriggio. Salve. Raccontaci un po' cosa avete messo in campo, chi siete, cosa avete messo in campo per appunto Bologna. Sì, allora, gli Studenti per l'Ambiente siamo appunto una rete studentesca che opera all'interno dell'Università di Bologna, aderente a Link Bologna Studenti Indipendenti e facente parte appunto del network nazionale della rete della conoscenza. Qui a Bologna è già da più o meno un mese che ci troviamo ogni venerdì con Fridays for Future per parlare un attimo delle tematiche ambientali, ma inoltre stiamo portando avanti un percorso più ampio anche al di fuori di Fridays for Future, che è quello verso sia la manifestazione del 16 marzo, ovvero quella del Bosco che Cammina, lanciata da Rigenerazione Non Speculazione contro la cementificazione dei prati di Caprara, e verso il 23 marzo, che sarà appunto la manifestazione a Roma, la marcia per il clima contro le grandi opere inutili, in cui noi stiamo organizzando un autobus, e appunto il 20 marzo faremo anche un'assemblea pubblica in università sul tema appunto delle grandi opere, sia locali sia nazionali, perché è visibile che anche qui a livello locale si stanno portando avanti una serie di opere inutili. Basti vedere le dichiarazioni che sono state fatte sabato scorso dal sindaco Merola e dal presidente della regione Bonaccini sul passante di mezzo, ma basti anche vedere tutta la questione dei prati di Caprara, dell'ex CRD, ma anche appunto delle difficoltà di Italy World, che ci siamo un po' dimenticati, ma ha una serie di criticità anche quello. Insomma, il lavoro di Fridays for Future sarà domani sicuramente soltanto una prima tappa per noi di Link, di Studenti per l'Ambiente, verso quello che è un percorso più ampio, che appunto affronta il tema ambientale in una prospettiva che riguarda principalmente la decisionalità sui territori, la decisionalità sui nostri corpi anche, perché tutta questa serie di politiche porta anche a un disciplinamento dei corpi in questo senso. Visto che hai evocato le grandi opere, ti faccio una domanda su questo, perché spesso, come dire, ad appoggiare chi vorrebbe realizzarle è anche una parte in realtà del mondo sindacale, o comunque di chi evoca il fatto che comunque realizzare grandi opere genera occupazione, genera posti di lavoro, quindi ci sarebbe una contrapposizione sostanzialmente tra l'ambiente e i posti di lavoro. Voi cosa ne pensate di questo? Beh, allora, sicuramente è un tema complesso. Quello di cui sicuramente bisogna parlare è che il tema del lavoro è strettamente legato anche al tema dell'ambiente, e sicuramente non si può portare avanti un ragionamento più generale sul lavoro senza tenere dentro anche la tematica ambientale, nel senso che oltre a tutte le condizioni dei lavoratori è tutta anche una questione di come si costruisce sul territorio, di come si lavora sul territorio, di cosa appunto si può fare, si può creare posti di lavoro da un momento all'altro con una grande opera che poi creerà più problemi che altro e che genererà una serie di anche sviluppi negativi per quanto riguarda l'ambiente e per quanto riguarda sia i lavoratori stessi sia chi abita quegli spazi. Quindi la nostra idea è che sicuramente si possono creare posti di lavoro anche senza grandi opere, appunto. Basti vedere una serie di tante piccole opere necessarie sul nostro territorio e su tutto il territorio nazionale. La tutela dell'ambiente e posti di lavoro sono strettamente legati, e appunto una visione miope che porta alla creazione di grandi opere soltanto per creare posti di lavoro mi pare leggermente restrittiva per quanto riguarda tutta la tematica. Certo, insomma, si possono creare anche in modo più ecosostenibile, insomma, i posti di lavoro. Esatto. Ecco, domani concretamente a Bologna cosa succederà? Domani la mattina dalle 9 alle 13 ci sarà il corteo indetto da Fridays for Future, che partirà dalle 9 da Piazza Maggiore e si dirigerà prima in zona universitaria e poi si concluderà in prefettura. Il pomeriggio invece ci sarà presso il Dipartimento di Chimica, come studenti per l'ambiente, un seminario sulla appunto la questione climatica. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda un po' il ruolo in realtà dei cittadini e di tutti noi, perché ovviamente è anche giustamente, come dire, il dito è puntato spesso sui grandi della terra che non fanno niente per fermare il cambiamento climatico, ma forse, come dire, un ruolo ce lo hanno anche le persone con i propri comportamenti. È un tema su cui avete riflettuto? Sì, allora, principalmente abbiamo portato avanti questo tema all'interno dell'università, portando avanti una serie di rivendicazioni come studenti indipendenti, come studenti per l'ambiente, anche in vista delle elezioni studentesche che ci saranno a maggio. In questo senso noi abbiamo chiesto all'Università di Bologna un adattamento a quella che è stata la delibera del CRUI, della conferenza dei rettori, sull'università plastic free. L'Università di Bologna non tutela appunto in alcun modo la diminuzione della plastica, tutti i bicchieri del caffè, delle macchinette sono in plastica, non ci sono distributori d'acqua potabile in università, e la nostra rivendicazione è anche quella dell'ottenimento insieme al badge di borracce gratuite per tutti gli studenti. Questa cosa è già stata fatta sia a Roma sia a Milano Bicocca. C'è tutta una riflessione, sia ovviamente inquadrando in un quadro molto più generale questa questione, ma anche sul piano delle singole persone. Noi crediamo che comunque questi comportamenti siano da portare avanti, ma ci sia bisogno anche di una netta presa di posizione da parte delle istituzioni, che devono implementare anche gli strumenti per far portare avanti questa cosa. Cioè, in università banalmente non c'è, in molti posti non c'è neanche la raccolta differenziata. Io ti ringrazio e insomma buona manifestazione domani e in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Arrivederci, ciao.